Ti dicono svegliate che sono tipo le 7, devi fare la trasmissione. Ma quale trasmissione? La trasmissione è quella che devi fare il venerdì mattina, che a un certo punto ha sostituito la trasmissione che facevi prima, ma la facevi di martedì, quella facevi di giovedì, a seconda di come era. Ma io sono andato a dormire tardi ieri sera, poi oggi è una lunga giornata, stasera c'è Runtime by Night e poi dovrebbe arrivare un amico nostro stasera, che forse lo portiamo pure in radio, perché dopo tanti anni insomma magari farebbe pure bene, però insomma la vedo un po' dura. Insomma è una lunga giornata, ma noi famo così, ci proviamo. Il grande reset, un programma con l'occhi da matto di Simone Pizzi. Sì. Oh, ma quanto è autocelebrativa sta sigla, perché non è che tu hai preso, che ne so, uno speaker e gli hai detto senti mi fai la sigla, no, ma sono fatta da solo la sigla e beh, la trovo divertente, ma stavolta ho cercato di essere asciutto, cioè non ho fatto come abbiamo fatto con GM, capito, che via e parte tutte le cose, botte, scorregge e via dicendo, con l'occhi da matto, mo vi spiego un pochetto, perché cerco di dare un attimo un'introduzione a questa nuova sperimentazione e soprattutto, anche se un po', diciamo, cercato di spiegarlo quando abbiamo chiuso di tutto un podcast, quando abbiamo chiuso Book, buongiorno un cazzo, perché c'è un ragionamento dietro, perlomeno un filo conduttore, una filosofia, diciamo così, rispetto a questo tipo di discorso. Nel frattempo vi ripropongo la domanda di cui poi cercheremo magari di affrontare questo tema, e anche cioè il tema della prima puntata, e poi anche il modo in cui vorrei provare a condurre questa trasmissione, che non è realmente così immediato, così semplice come possa sembrare, perché mi piacerebbe interazione. Però poi interazione alle 7 di mattina capisco che è un po' faticoso, cioè nel senso, oh ma cioè, se c'è qualcuno che ti ascolta, che si è svegliato, ci deve avere anche la lucidità magari di partecipare al tuo ragionamento, insomma. Però vabbè, questa mattina proviamo a chiederci che cos'è il machismo, quali tipo di machismo identificate, cioè nel senso quanti atti che potete voi identificare machisti all'interno di della quotidianità, oppure esiste un fenomeno equivalente al femminile? Michela già vedo che insomma in chat ci ha scritto la sua, poi magari dopo lo andiamo anche a leggere, però prima di tutto facciamo finta che la gente non mi conosce, non sa chi sono. Però se non mi conosce, non sa chi sono, che ci sta a fa qua? Perché ci sarebbe da domandarsi che ci siete venuti a fa, cioè nel senso, come siete capitati? Vabbè, io sono Simone, molti insomma alla fine mi chiamano Erpizzi, e so quello che fa i podcast da tantissimi anni, e ogni tanto ne chiude uno per aprirne un altro. È un ciclo continuo che si è ripetuto per tantissimi anni per ragioni che possiamo definire anche sconosciute, insomma, nel senso che, cioè, vabbè, ma perché fai così? Cioè, alla fine, cioè, cerca di dare un senso, una coerenza, insomma, a quello che tu fai. Sì, però a volte dentro di me c'è quella necessità di fare quello step in avanti, o step indietro, o step di lato, perché non è detto che poi abbia sempre un senso questa cosa, però un reiterare sempre un concetto alla fine comunque in qualche maniera a me mi soffoca, cioè nel senso, e quindi c'è questo tentativo di resettare ogni tanto e di ricominciare da capo, così come è stato fatto diverse volte con i podcast dei videogiochi, no? Da Dietrologia Videoludica a Videoludica, Ludico Forum. Il concetto, diciamo, espresso è sempre quel tentativo di creare un pensiero laterale, dall'altra parte invece è proprio la necessità di formattare, no? Di resettare, e magari anche cambiare team, cambiare approccio, insomma, diciamo, da questo punto di vista. E il grande reset, che può sembrare, no? Cioè, nel senso, comunque un richiamo al complottismo, ecco, se siete venuti per questo potresti non rimanere delusi, perché potrei anche fare ogni tanto dei discorsi da matto, ci sta, cioè io non lo metto in discussione, ma certo non è questo lo scopo di questo programma, di questo programma. Quali sono allora però le differenze con Buongiorno un cazzo? Cioè, nel senso, alla fine sei tu la mattina che prendi e cominci a parlare di qualche cosa. Sì, vero, ma l'approccio di Book, già dalla cover, comunque in qualche maniera ci raccontava qualcosa di aggressivo, no? Cioè, nel senso di, cioè, già il Buongiorno un cazzo, cioè, già che ti svegli incazzato, comunque sei lì, e questo rosso che comunque a me mi appartiene, no? Come colore, un po' per appunto le mie estrazioni socialiste, anche socialdemocratiche, poi, quindi comunque alla fine quell'impronta politica. Questa cosa che comunque in qualche maniera a un certo punto, in una fase di trasformazione della mia vita, non mi appartiene più, cioè sta lì e non voglio essere incazzato, non la mattina, voglio cercare di fare dei ragionamenti, parlare con la gente, tornare a fare quello che si faceva una volta, no? Tu ti metti seduto davanti all'altro e se parla, ognuno dice la sua, insomma, sarebbe bella una cosa del genere. So che chiaramente è anche inverosimile da un certo punto di vista, perché come ho detto, insomma, alle 7 di mattina la vedo dura che ci siano persone che siano pronte, no, a fare questo tipo di interazione con te. E quindi anche il cambio d'approccio, sebbene alcuni mi dicono, vabbè, ma poi alla fine anche le cover sono abbastanza uguali. Sì, però il font è leggermente diverso, il colore non è più il rosso, ma il verde, che è un colore che mi appartiene in maniera incredibile, anche quello, perché comunque è stato forse il colore che ho amato di più in tutta la mia vita, e che è collegato a tanti ricordi, a tante cose, alla menta. Dice, ah, come la menta, io sono collegato alla menta. Dice, beh, allora sei strano, no? No, però per me, quando ero ragazzino, che al bar mia madre mi prendeva acqua e menta, io prima di berla mi mettevo sto bicchiere davanti all'occhio e guardavo il mondo verde, e mi piaceva, era tutto verde. Sembrano stronzate, però poi alla fine penso che tutti noi, no, in qualche maniera hanno questo tipo di approccio, questo tipo di ricordo, magari che ti collega a un qualche cosa che ti porterai poi per tutta quanta la vita. Poi, prima di tutto, prima di iniziare, volevo anche ringraziare gli amici, perché a questo punto mi viene da dire, insomma, amici, nel senso che loro in un atto di spontanea promozione di questa trasmissione, quindi in qualche modo anche di Runtime Radio, hanno detto cioè, radio gemellata, cioè nel senso noi non abbiamo nessun legame, nessun approccio, ci siamo sentiti solo una volta, abbiamo interscambiato, però evidentemente poi quando ci sono delle filosofie che comunque in qualche maniera si uniscono, si incontrano, si sbattono contro, perché tante volte nasce sempre qualcosa di positivo, no? E questo è abbastanza divertente. Sto parlando di Radio Anziano, che potete trovare su YouTube, andate su YouTube, cercate Radio Anziano, vi ascoltate ogni mattina alle 7, esce un episodio. Gli episodi sono molto in stile anni 90, radio anni 90, radio indipendenti anni 90, sono molto lavorati, quindi c'è molti inserti, frasi di film, cose, insomma, ma fatto con un criterio, con un pensiero, e a me piace moltissimo questo stile. Le puntate durano pochissimo, quindi dopo che avete sentito le dirette di Runtime Radio della mattina, andate su YouTube, aprite Radio Anziano, intanto iscrivetevi, attivate la campanella e vi ascoltate un episodio che dura appunto 8-10 minuti, quindi avete pure l'opportunità di sentirvi anche quelli vecchi e insomma costruirvi un rapporto anche con questo ragazzo che ha questa idea e che magari in qualche maniera può diventare compatibile. E l'ultimo ringraziamento prima di partire seriamente, insomma, per questa nostra avventura è all'hard disk di Runtime Radio. L'hard disk di Runtime Radio, che uno dice, vabbè, questa sta a salutare l'hard disk. Saluto l'hard disk perché dopo 7-8 anni di onorata carriera, so già 3 anni, vi devo dire la verità, incredibile, perché poi secondo me ci sono certe cose che in qualche maniera, proprio per, inconsapevolmente, per il rispetto del compito che portano, cercano di fare del tutto per sopravvivere. Ma so già 3 anni che dà segni di, guarda che, oh, sto a morire. Allora poi tu fai tutti i backup che ti pare, però insomma alla fine comunque un disco operativo ti serve. E Star Disc che lavora da 7-8 anni, e insomma sta lì, dicevo, io guarda che non ne la faccio più. E oggi ha fatto il suo ultimo trasferimento. Adesso lo prenderò, ci metterò l'hard disk Runtime Radio e lo metterò dentro un cassetto e resterà lì, insomma, con noi per l'emergenza, nel senso che comunque c'è comunque archiviato del materiale che insomma ha fatto il suo dovere, e questo insomma mi fa piacere tenere questo hard disk, insomma, che sarà lì, che ha fatto insomma la sua onorata carriera, un po' come quando prendi una nave e la metti in disarmo, cioè nel senso dice vabbè basta, la parcheggi lì e diventerà un museo, insomma. Perché poi comunque sembra una stupidaggine, ma comunque dei dati, quante cose sono passate, quanti podcast, quanti assets, quanti montaggi sono passati su quell'hard disk, no? E ha fatto il suo tempo, insomma, prima di perdere cose che sarebbe meglio non perdere, prima di rimanere a piedi, insomma, abbiamo fatto questo piccolo investimento che poi dovrà essere rimborsato, naturalmente. E vabbè, dai. Allora, facciamo una cosa. Mi è venuto in mente che... Aspettate, eh. Perché voi pensate che è tutto semplice, ma da soli la mattina è complicato. Vabbè, comunque dai col tema principale della puntata e ci sentiamo subito dopo il brano. E i Village People, insomma, ci introducono questo tema, mentre che in chat Michela mi dice: ci sono, tranquillo, sì, lo vedo che ci sei, almeno tu, insomma, diciamo, almeno tu ci sei in questo giorno di Befana. Ha ragione, in effetti, buona Befana a tutti, e quindi mi immagino che tanti di voi stanno dormendo, altri sono andati a fare il weekend lungo, altri saranno pure cavoli loro di quello che gli succede, e quindi giustamente in questo noi esordiamo, diciamo, nel giorno in cui probabilmente non c'è nessuno che ci ascolta, però non fa niente, poi se l'ascolteranno in podcast, perché durante l'arco della giornata poi uscirà la versione podcast di questo programma, quindi un nuovo feed, una nuova cosa e via dicendo. Comunque Michela dice nel suo primo intervento che praticamente secondo lei il machismo non è altro che diciamo un'altra, un'estensione, diciamo un'estremizzazione di quello che poi è il maschilismo, fondamentalmente. E questo penso che sia poi il punto di partenza, no? Cioè ci viene da domandare se al di là dell'aspetto culturale e ideologico che si nasconde dietro un certo tipo di comportamenti, se questo tipo di diciamo di approccio ha delle ragioni ataviche per motivi antropologici, o se è veramente soltanto un aspetto culturale, cioè se c'è una base naturale in un certo tipo di comportamento sociale, o se appunto è soltanto un costrutto, no, della nostra società, perché conosciamo società matriarcali, conosciamo società patriarcali, però in effetti nella società che conosciamo noi in maniera più diretta, più vicina, quello che noi possiamo vedere è che quell'ombra, anche in una società, diciamo, in fase evolutiva, che comunque in qualche modo cerca di fare uno step in avanti, cerca di progredire dal punto di vista culturale, sociale e comportamentale, poi alla fine comunque rimangono sempre quelle ombre, quegli spettri, no, che hanno condizionato la nostra cultura nel passato e che evidentemente condizionano la cultura attuale in maniera abbastanza evidente. Il maschilismo inteso anche come proprio forma strutturale delle famiglie, anche del comportamento interrelazionale proprio nelle famiglie stesse, come abbiamo più volte detto, anche il rapporto tra padri e figli, tra padri e figlie, tra madri e figli, tra madre e figlie, ma non soltanto, comunque un approccio a volte violento nel senso più sottile, più invisibile del termine, perché cioè, comunque noi abbiamo anche osservato persone, quindi magari ragazze che hanno subiscono, diciamo, questa violenza culturale da parte dei genitori, e poi comunque in qualche maniera lo vanno a ricercare come modello esistenziale anche al di fuori, invece di pensare che magari quel tipo di condizionamento potrebbe dovrebbe essere abbattuto e quindi andare a cercare un qualcosa di diverso, di nuovo, di più fresco, proprio anche per la propria mente, invece poi alla fine diventa un modello. E quando diventa un modello significa che evidentemente questa cosa comunque in qualche maniera si è radicata non soltanto nella cultura della nostra società, che questo ovviamente lo sappiamo, ma si radicalizza a volte anche nel pensiero indotto delle persone che subiscono questo tipo di situazione, no? Quindi è chiaro che il maschilismo inteso come prevaricazione, no? Come punto di forza culturale, alla fine diventa diciamo il punto di partenza del machismo, cioè che poi alla fine, poi fondamentalmente diamo terminologia, cioè aggiungiamo una terminologia a un fenomeno che già ha una sua valenza dal punto di vista culturale della nostra società, perché poi il machismo, cioè che viene da maciste, è più rappresentativo, diciamo, nella sua esteriorità, più col discorso della muscolarità, no? Quindi, cioè, nel senso la fisicità, la forza, l'importanza, insomma, di una forza fisica nei confronti ovviamente della normalità della gente. Però il machismo e il maschilismo hanno a fine comunque dei, come posso dire, un rapporto molto più sottile poi alla fine, perché al di là di quello che è lo scimmione che va in giro a fa c'è comunque poi tutta una serie di sottostrati che invece sono più invisibili, che tendiamo a non a individuarli, perché anche noi comunque li assimiliamo come parte della nostra cultura comportamentale dal punto di vista sociale, e quindi non ci rendiamo conto che in realtà anche quelle sono delle devianze, sono delle esagerazioni, delle cose che, diciamo, una società, una cultura, una civiltà in una fase evolutiva dovrebbe piano piano scartare. Però purtroppo poi l'evoluzione di una civiltà passa per due passi in avanti e tre passi indietro, è fisiologico. Forse due passi in avanti e uno indietro, facciamo così, perché sennò cioè, matematicamente non funziona questa cosa. Però questo è un discorso, insomma, che va tenuto in considerazione, no? Cioè, nel senso che comunque c'è una fase di rivoluzione e una fase di controreazione, soprattutto in un periodo come questo. Questo è un periodo un po' particolare, dove nonostante noi sappiamo la storia, cosa ha portato dal punto di vista del razzismo, della violenza, del sopruso, dell'abuso e via dicendo, siccome che i testimoni che hanno vissuto direttamente determinate situazioni vengono sempre a mancare sempre più con frequenza, perché chiaramente poi c'è un fattore cronologico, come, insomma, è ovvio che noi abbiamo una scadenza, alla fine, mancando la testimonianza diretta, si tende a dire: ah, meno male che questi sono morti, che ci rompevano i coglioni con la guerra, insomma, col fatto che le donne devono stare a casa a cucinare, e vabbè, poi senza considerare il fatto che io faccio sempre questo esempio, no, del diploma di quella ragazza che ci aveva 9 a lavori donneschi, cioè, su una scuola romana in un'epoca, insomma, cioè negli anni 2000, sta cosa è anche sconvolgente. Ma questo che significa? Che non soltanto siamo ancora legati a un certo tipo di strutture di tradizione, ma che alcuni ne vanno proprio fieri, cioè sono proprio orgogliosi di questo tipo di situazione. Ecco, questo forse è la cosa più allarmante da un certo punto di vista, no? Cioè, nel senso, il fatto che anche chi dovrebbe, allora, tutti, io una volta ero a una manifestazione contro il razzismo, eravamo, insomma, tutti noi, insomma, dei gruppi di sinistra, e più c'erano i ragazzi della comunità ebraica, che io a questo gli ho detto: beh, perché voi dovete combattere questa cosa, che lui diceva: no, non è che noi, lo dovremmo fare tutti, perché è un problema che è collettivo, che riguarda tutti. Sì, è vero, però è chiaro che, cioè, nel senso, chi è più colpito dall'altra parte dovrebbe essere quello che dovrebbe urlare più forte. E invece a volte ci sono questi comportamenti che noi diamo per assodato, che arrivano da tutte le parti, arrivano anche dalle persone che vengono maggiormente colpite da questo tipo di comportamento. E questa forse è la cosa che a me, tutto sommato, devo dire la verità, preoccupa di più. Non me ne frega niente se mentre rimango indietro. Non gliene frega niente a Levante se il mondo crolla e quello che succede. Salutiamo anche Francesco. C'è un'altra cosa che ho sempre constatato, per esempio, che è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, soprattutto alla, questo in senso generale, però questo l'ho notato in tante persone che conosco che vengono da famiglie del sud, no? Che è praticamente il fatto che, siccome che questa cultura in qualche maniera viene consolidata, il maschio si sente protetto da questo tipo di meccanismo, e nel sentirsi protetto, alla fine, che succede? Succede che si sente legittimato, più forte, un po' una sorta di effetto branco, però in maniera diversa, in maniera più laterale, no? Cioè, nel senso che comunque, diciamo, a me mi è consentito, cioè, tipo, faccio un esempio stupido, mo non è un esempio reale, però è un esempio stupido. C'è un fratello che vede la sorella che fa la civetta con un ragazzo. Quante ne abbiamo viste queste cose, ragazzi? Un po' sconvolgente, perché vabbè, qui stiamo parlando più di maschilismo, è vero, ma secondo me le cose sono comunque collegate, perché dunque il maschilismo è l'atto di, diciamo, rendere istituzionale la tua figura di maschio, di uomo. Il machismo è anche, come posso dire, l'esposizione più esplicita, diciamo, di questo tipo di atteggiamento. Quindi il fratello va dalla sorella: ah, che stai a fare, svergognata, tu pizza, e la riporta a casa, no? Che è una cosa grave, se ci pensate, no? Cioè, al di là dell'aspetto semplicemente culturale, è proprio un problema di abuso, di violenza, no? Cioè, comunque, in qualche maniera tu ti aspetti che all'interno del contesto familiare qualcuno dica: vabbè, ma come ti sei permesso? No, invece no, perché lui lo fa, cioè lui si macizza perché è giustificato, è appoggiato, è sostenuto da questo punto di vista. Quindi, cioè, non è lui veramente un macio, perché lui magari sarebbe pure, cioè, una mezza cassetta, no? Perché poi dopo si nasconde sempre, capito, questa cosa di voler essere qualcosa di più perché c'è sempre qualcuno dietro. Non è come l'effetto branco. A me mi viene in mente sempre quella cosa, che quell'audio che avevo messo nella sigla del Buongiorno un cazzo, del tizio che gli diceva a Saverio Tommasi: levate la mutanda dalla faccia, pezzo di merda, no? In quel contesto. Ma se io e te se troviamo uno di fronte all'altro in un contesto dove tu non sei più la maggioranza, non sei più l'uomo sostenuto, no? Il maschio alfa, semplicemente eletto sul momento, tanto per, come ti comporti? Qual è il tuo comportamento, no? Cioè, quale sarebbe in una società comunque in volontà di evoluzione, perché non stiamo neanche più a parlare di evoluzione, in volontà di evoluzione una cosa del genere dovrebbe essere. Eppure noi fino a non tantissimo tempo fa avevamo ancora delle leggi che giustificavano, diciamo, se il marito sparava la moglie perché la moglie gli aveva messo le corna, capito? Ovviamente la cosa non aveva lo stesso corrispettivo, al contrario, no? Quindi alla fine questa cosa del machismo nasce da una cultura maschilista, e questo l'abbiamo capito. Il tentativo di esteriorizzare, diciamo, di rendere manifesta questa superiorità, questa supremazia anche fisica, a volte nasconde tantissime altre cose. Però la cosa che ho sempre notato, ma questo su tantissimi aspetti della nostra società in generale, per noi che veniamo dagli anni 70 e che quindi comunque abbiamo visto la trasformazione del mondo, è che determinati contesti erano comunque autoghettizzati nei loro contesti, perché chiaramente quando tu sei un fratello bianchi che, insomma, non sai parlare in italiano, cioè non sai parlare, anzi, ma l'unica cosa che tu sai fare è scopare e menare. Questo è ovviamente, tu all'interno della società non puoi essere integrato, perché non sei in grado, non perché c'è un motivo di razzismo, ma proprio perché non sei in grado di interrelazionarti con un mondo normale che non ha quelle regole lì, no? Però la società, cioè, diciamo, il mondo dei social chiaramente ha creato una contaminazione in tutto questo, creando anche un po' una confusione, secondo me, perché chiaramente tutte quelle realtà che erano una volta, diciamo, ai margini della società e che viveva si alimentava da sola, ma non difficilmente diciamo, sconfinava all'interno di un mondo diverso da quello che loro conoscevano. Oggi purtroppo con i social questa cosa è, diciamo, ha trasbordato, e chiaramente creando delle contaminazioni anche dal punto di vista del modello. E non parlo di quelli che fanno bodybuilding, che si menano da soli, che si caricano, che fanno parlo di quelli che si mangiano la carne cruda dicendo che il loro fisico non è chimica ma è soltanto potenza fisica, e poi dopo si viene a scoprire che, insomma, si fanno i bomboni integratori, anabolizzanti, tutte cose che ci sono sempre state, non è che ci sono, ma oggi sono alla portata di tutti proprio culturalmente. E chiaramente chi non è, come posso dire, preparato a comprendere quali possono essere, insomma, le cose giuste o sbagliate, diciamo, da un certo punto di vista, anche per la propria salute, non si rende conto che ci sono queste situazioni che sono un po' al limite, no? E poi ovviamente anche proprio l'approccio culturale. Adesso mo c'è il macismo monetario, no? Cioè quelli che vanno in giro con sti mazzi dei sordi e fanno io so comprare. Al di là della situazione di Andrew Tate, di cui ne avete parlato già tutti in tutti quanti i podcast, no? Cioè, è questo esporre con questa violenza, che per violenza non significa menare, cioè non significa necessariamente fare un atto di colpire qualcun altro. La violenza è anche comportamentale, è anche verbale, no? Cioè, nel senso, comunque tutta questa volontà di esporre la propria muscolatura, che è la muscolatura, ma so i cavalli della macchina, ma so i mazzetti dei sordi, ma deriva sicuramente da un disagio, ma questo disagio ormai lo propaghiamo praticamente a tutto il resto della società, e questi elementi educativi poi comunque in qualche maniera, soprattutto nelle fasce più adolescenti, dove già comunque, diciamo, le situazioni sono sempre un po' a rischio, perché comunque è un momento di formazione, e a seconda di quello che tu incontri nella tua vita, comunque in qualche maniera ce l'hai certi condizionamenti, e cala che, insomma, purtroppo questo è qualcosa che, boh, non lo so, mi preoccupa. Poi Michela faceva riferimento alle macho woman, no? Che poi in realtà io non... Sì, cioè, nel senso, le macho woman noi le intendiamo come praticamente come quelle donne che hanno un comportamento maschile, quindi macista da quel punto di vista. Però non è esattamente quello che chiedevo io. Cioè, quello che chiedevo io non è se ci sono donne che hanno comportamenti emulativi del macismo maschile, ma se esiste un corrispettivo concettuale del maschilismo e del macismo al femminile. Quindi un qualcosa di un po' più delicato, un po' più di sottile, capito? Che secondo me comunque c'è ed è sempre collegato al maschilismo, perché sono le madri che insultano le proprie figlie perché non sono adeguate al tipo di cultura, ad esempio. Ecco, ragioniamo un attimo su sta cosa qui, e voglio vedere se avete o volete scrivere qualcosa in chat, o anche mandare un messaggio, che va bene uguale. Dal 2010 ad oggi, sotto diverse forme e con diversi nomi, questo collettivo di persone e amici ha prodotto migliaia di ore di contenuti in podcast e in live. Dalla passata esperienza di Italian Podcast Network per arrivare a Runtime Radio, questa realtà ha superato i 2 milioni di download complessivi. Nei periodi di difficoltà abbiamo cercato di fare compagnia alle persone con la nostra presenza, le nostre idee e le nostre risate. Se sei qui ad ascoltare, sicuramente sei un affezionato ascoltatore e di certo avrai dato il tuo contributo. Ma non dimenticare mai che tutto questo si regge solo sulla passione di tutti noi della radio, e che qualora ne avessi la possibilità e la voglia, anche tu puoi contribuire a sostenere economicamente Runtime tramite un versamento ricorrente su Patreon o un regalo una tantum tramite PayPal. Per sapere come fare, basta andare sul nostro sito www.runtimeradio.it e cliccare sul pulsante Anche io. Sostieni Runtime per un'ennesima nuova stagione di grandi contenuti. makes me smile. She thinks the way I think. Che poi se ci pensate, ma quanto fanno tristezza sti maschietti con i muscoli grossi e il cazzo piccolino, nascosti dentro le loro macchine con i cofani lunghissimi, circondati da femmine che hanno una visione dell'esistenza che è degradante per loro stesse, prima che ovviamente per la cultura nel senso più generale, no? E alla fine comunque il maschilismo e il macismo, ritorniamo alla fine, che sono aspetti dello stesso presupposto culturale, si manifestano con i muscoli, con la forza del branco, con la violenza, con l'uccidere un povero ragazzo che si trovava lì, insomma, magari per motivi accidentali o per ragioni magari legate comunque al voler difendere magari un amico, un'amica o qualsiasi altra situazione, semplicemente perché tu sei più grosso e sei più forte e quindi sei in dovere di poter fare uso della tua forza, della tua violenza, soprattutto caricato dagli altri, perché poi è questo un po' il discorso. Ma dei fratelli bianchi ne abbiamo già parlato, ma non sono soltanto loro, sono situazioni che purtroppo in qualche maniera si ripetono spesso e volentieri e che comunque sono proprio derivative di una nicchia culturale, di un nocciolo che in qualche maniera resiste all'interno di questa società. E come ci scrive Francesco, cioè Guzzanti diceva che è facile fare i macisti in una società in evoluzione, provate a fare gli evoluti in una società macista. Nella frase quasi sillogistica, tutto sommato, poi alla fine c'è un senso. Tanto buongiorno anche a Deborah, chiaramente. E questo è un po' un argomento che mi ha sempre colpito, perché vedo situazioni intorno a me che purtroppo poi sono anche in aumento in qualche maniera. Situazioni intorno a me che mi preoccupano, proprio perché dal punto di vista proprio culturale ci stanno dicendo che questo è un momento di grande frenata, di grande arresto da questo punto di vista, appunto, della società in evoluzione, della civiltà che prova a progredire in qualche maniera. E questa fase noi ce la prendiamo in faccia ed è cilica comunque in qualche maniera e non lo so, dal ragazzino che si sente giustificato, gli dà uno schiaffo alla sorella perché sta a fare la civetta con un ragazzo e che a sua volta viene giustificato dalla società, al tizio che si pompa dei muscoli e comincia a gridare davanti a capito, su TikTok, uomo, se sei uomo, tu fai uomo, capito? Cioè, che poi ovviamente io capisco che il tempo che tu occupi per sprechi, diciamo, che dedichi a occuparti del tuo corpo è tutto tempo che ovviamente levi dal leggerti un libro, magari, no? Guardarti un film o ascoltarti un audiolibro o comunque tutto quello che in qualche maniera ti aiuta anche a strutturare un pensiero, perché ma questo non voglio dire che ci sono persone ipermuscolose che non abbiano una cognizione filosofica o culturale evoluta, per questo ovviamente io stiamo parlando poi per stereotipi, no? Chiaramente di un fenomeno, di situazioni che purtroppo oggi sono veramente in aumento, soprattutto nei social. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista, cioè il fatto che purtroppo siamo a volte sottilmente, siamo talmente distratti dal tizio che su TikTok sa fa 50 pertiche veloce, velocissimo, e dice: mentre che tu perdevi tempo a andare in discoteca a fare il tacchino con le ragazze, io ho ottenuto dei risultati. E quali sono i risultati? I risultati che non ti sei divertito, non hai scopato, cioè, non hai fatto le cose essenziali della vita perché dovevi raggiungere un obiettivo del quale non frega un cazzo a nessuno, fondamentalmente, se non a te stesso, chiaramente. Poi ci sono quelli là, capito, che a 20 anni fanno vedere davanti a TikTok, fanno vedere la pagnottella, guarda che pagnottella, io l'altro giorno ero in piscina, il bagnino mi ha detto che non dovevo fare quella cosa, ah sì, io gli ho scopato la ragazza. Ma che cazzo stai? Ah, ragazzi, riprendete il controllo di voi stessi, perché cioè quello che io sto vedendo negli ultimi anni è veramente ridicolo. Quindi ci troviamo tra tutta questa parte molto esposta che in qualche maniera ci preoccupa e tutta quella invece sommersa, quindi quei meccanismi anche all'interno delle famiglie che oramai noi diamo per scontato e va bene così, insomma, cioè nel senso pare che vada bene così, no? Perché lo diamo per scontato, appunto, come ritornando proprio all'inizio della puntata, come la ragazza che è talmente abituata a subire quel tipo di violenza psicologica, diciamo strutturale della sua famiglia, che alla fine quel modello lo cerca anche di fuori, no? Cioè nel senso che comunque per lei è una normalità, e se non è per te la normalità, vieni, come posso dire, ulteriormente violentato psicologicamente, perché come non è, per te deve essere la normalità, tu devi essere la donna che fa i figli e zitta pure zitta, capito? Cioè, perché poi e questo non è che dici oggi ma che stai a Dio, ma mica è più così. Non è più così in senso globale, ma è così in senso più locale, cioè ci sono tante realtà che ancora purtroppo funzionano in questa maniera qua. E purtroppo, ragazzi, questa cosa a me mi sconvolge, perché poi alla fine l'evoluzione culturale si fa mano per mano, cioè insieme, non è che ci può essere, ci sarà sempre un elemento che trainerà un altro elemento, ma se si aspetta un elemento che semplicemente traina anche l'altro elemento non è contributivo nell'evoluzione, no? E quindi alla fine non gli fa manco bene da questo punto di vista. E cioè nel senso è un po' come si diceva del pulcino dentro l'uovo, no? Sta lì e tu gli dai una mano praticamente a uscire dal pulcino e non gli fai del bene, insomma gli fai del male, perché lui quello sforzo che deve fare per rompere quella barriera comunque in qualche maniera nella vita gli mancherà e quindi non avrà quella forza. Forse è più un discorso metaforico psicologico che chiaramente realmente fisico, perché io poi non so se veramente al pulcino, se gli rompi l'uovo, lui nella sua vita non riuscirà ad ottenere i passaggi fondamentali della sua evoluzione, non ne ho idea onestamente. Però dal punto di vista della metafora psicologica è fondamentale, perché se tu non riesci a uscire da questo meccanismo rimarrai sempre un po' vittima all'interno di un contesto che ancora oggi è strutturato in una certa maniera, e sta cosa insomma mi fa ridere. Rimanete per i saluti, ragazzi, perché vi dico il tema della prossima puntata e perché vorrei un vostro contributo. Questa puntata, la seconda puntata, ha anche una storia che ci collega un po' a Buongiorno un cazzo in qualche maniera, e accompagnando questa transizione tra due programmi che sembrano uguali ma in realtà per me non lo sono. Questi sono i King Gizzard and the Lizard Wizard, che sono un gruppo moderno che fa prog, cioè comunque rock progressive anni 70, insomma. Io li trovo meravigliosi, me l'ha fatti scoprire l'altra settimana Marco Gualdi, che ogni tanto, insomma, tra il suo essere un po' ma frega un cazzo del mondo, alla fine comunque tira fuori queste perle, e ve li consiglio. Se vi piace ovviamente il progressive anni 70, insomma quell'impronta lì. L'unico vantaggio che c'ha rispetto al progressive anni 70 è che le canzoni non durano 10 minuti, insomma, diciamo, ecco, durano normalmente, insomma, la normale durata di una canzone. Scusate per la tosse, ma purtroppo questo è quanto. Vi ricordo che questa sera c'è Runtime by Night, Se volete partecipare basta che me lo dite, se non ci avete niente da fare, non ci avete impegni e volete stare in diretta con noi su Runtime by Night, insomma io sono assolutamente contento. E chiudiamo così la Befana così come l'apriamo, cioè sempre qua su runtimeradio.it. Mentre per quanto riguarda la prossima settimana, venerdì prossimo alle ore 7, recupererò un'idea che avevo per Buongiorno un cazzo, che però non ho mai finalizzato, perché secondo me alla fine c'aveva bisogno di un colore diverso, c'aveva bisogno del verde piuttosto che del rosso in qualche maniera. Ribadisco che per me il rosso resta fondamentale nella vita, perché comunque non era come si diceva, c'era una mia amica alle medie che mi diceva, evidentemente vabbè, questa mi veniva dietro e quindi lei, insomma, per farsi sentire insomma importante in qualche maniera, no? E mi diceva, ah sai, il mio cuore è comunista perché il rosso sta a sinistra. Questa frase che so, si diceva, cioè si diceva, si scriveva sui diari, ste cazzate qua, no? E è ovvio che oggi io non posso definirmi realmente legato alle stesse idee, agli stessi principi che avevo quando c'avevo 18 anni o quando c'avevo 16 anni. È chiaro che comunque quella è la mia estrazione, no? E comunque rimango legato con convinzione a certi presupposti, a certe posizioni ideologiche. Però oggi, comunque, come ho detto insomma nell'introduzione, come ho detto anche alla fine di Buongiorno un cazzo, e quindi ringrazio sempre poi Deborah che comunque mi ha dato comunque lo spunto anche da questo punto di vista, Reset, il verde comunque in qualche maniera in questo momento mi appartiene di più. Poi magari un giorno sarà il blu, io non lo so, insomma, comunque in generale in questo momento mi appartiene più. E quindi la prossima puntata è sulla libertà, ed è una puntata che si baserà sugli audio che mi sono stati già mandati a suo tempo quando lo chiesi. Ma se avete un audio da fare su che cos'è per voi la libertà, non importa cosa dite, non dovete dire una cosa che sia quello che ci si aspetta che voi diciate, potete dire anche una cosa completamente all'inverso, completamente inaspettata, potete anche dire una cosa semplicissima. Però se volete partecipare comunque in qualche maniera alla prossima puntata, che sarà fatta comunque anche dai vostri audio, anzi forse in maniera prevalente dai vostri audio e quindi con degli spunti, delle riflessioni, io sono contento di ricevere ovviamente il vostro contributo. Che cos'è per voi la libertà? Detto questo, vi ringrazio di esserci stati, anzi vi ringrazio che ci siete stati, perché appunto non avevo proprio nessuna aspettativa che ci fosse qualcuno stamattina, insomma, giustamente, vabbè, è festa. Detto questo, grazie a Michela, grazie a Deborah, grazie a Francesco, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato la diretta e quelli che ascolteranno la versione in podcast che uscirà insomma in giornata. Ciao e buona Befana a tutti.